Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Oggi leggeremo l'estratto di un libro. Il libro si chiama Equilibrio precario di Gianna Gambini. 150 euro al mese. 150 euro per un posto auto a quasi 150 metri da casa sua. Assurde le città. Prima o poi lo avrebbero fatto. Prima o poi avrebbe comprato un casolare in campagna. Così, sotto casa avrebbe potuto parcheggiare anche il trattore, altro che auto. Che poi definirla auto. Era una bestemmia, almeno secondo Farina. Era uno dei suoi migliori amici, e fin da piccolo aveva una passione sfrenata per i motori. Già all'asilo non disegnava altro che macchinine, soprattutto blu. Auto blu, tondeggianti, quadrate, triangolari. Ne delineava i contorni, e gli bastava per essere felice. Tutti pensavano che fosse una di quelle fisse momentanee dei bambini, ma Farina non la smetteva più, tanto che in quarta elementare una mattina il bidello della scuola gli disse «Tu diventerai famoso!». Per i toscani era pane quotidiano usare soprannomi, ma quello che il bidello usava per Farina era «Pininfarina». Quel bidello ne aveva servito uno proprio su un piatto d'argento. Da quel giorno Farina quasi non ricordava più di chiamarsi Giorgio. Era diventato per tutti Farina in quel momento. Ancora oggi si chiamava Farina, era un intenditore di auto, e anche se la frase del bidello era stata poco profetica e di lavoro faceva il meccanico, il soprannome era comunque molto azzeccato. Da grande intenditore di auto aveva definito la vecchia Y10 del prof una carretta in fin di vita, ma il prof non cedeva, continuava ad amarla e tenerla stretta a sé, un po' per motivi economici, un po' per un attaccamento morboso alla sua prima auto di proprietà. Non era stata mai condivisa con altri familiari. Farina era un uomo di design, il prof era un uomo di poesia e arte. Si completavano e uno non poteva invadere il campo dell'altro. Salì nell'auto color bianco sporco, inserì la chiave e si accorse che la sua Lancia aveva deciso di tirare le cuoia proprio durante la notte. Imprecò per la seconda volta da quando si era alzato, si frugò nelle tasche e ricordò di aver lasciato a casa volutamente il cellulare. Di tornare su e affrontare di nuovo Giulia non ne aveva voglia. Unica soluzione: uscire dal garage, recarsi alla fermata dell'ATAF e sperare che ne passasse uno nel giro di pochi minuti. Quando si parlava di ATAF non è che c'era molto altro da fare se non aspettare e incrociare le dita. A Firenze non avevano un orario fisso. I fiorentini si riunivano alla fermata e sapevano che prima o poi quell'autobus arancione si sarebbe fatto vivo. Prima o poi, certo. Mai al momento opportuno, comunque. Il pullman giallo era già praticamente fermo, deciso a non aspettare nessuno. Il prof fece l'ultimo tratto correndo. Rimpiangeva la beata gioventù che lo aveva abbandonato. Salì e in pochi minuti raggiunse Viale Morgagni, la fermata più vicina alla casa di Farina. Un uomo semiaddormentato in boxer e maglietta aprì la porta al prof. «Cazzo, Farina, ancora dormi?» Senza chiedere permesso, si catapultò in cucina e con sollievo vide che l'amico aveva ultimato lo striscione. «Oh, prof, dobbiamo andare in piazza Beccaria, che poi è tutto pronto. Lo slogan c'è. L'ho finito io». Farina aveva la voce impassata e si stiracchiava. «La Giulia?» La testa del prof ebbe un movimento oscillatorio. Il suo sguardo cadde sul pavimento. Sarebbe stato meglio evitare altre domande o commenti su Giulia. Era chiaro, ma Farina non era un'aquila. E quindi aggiunse: «Ha preferito il dio capitale, eh? In questo momento starà ballando una canzoncina techno nella hall con tutti quegli indemoniati dei suoi colleghi». «Va a quel paese, Farina, ma vacci veramente!» Non scherzava il prof e Farina si nascose in bagno, momentaneo rifugio alternativo al consiglio dato dal prof. Spostò lo striscione sul tavolo, per rileggere quanto la mente del Baco aveva partorito, ma cadde un posacenere con i resti di una canna. Raccolse tutto e lo gestò nel cestino. Come poteva pretendere, pensò il prof, di essere credibile con i suoi ragazzi, quando diceva che tutte le droghe bruciano i neuroni, che farne uso è da stupidi, e poi era circondato da tipi che non potevano farne a meno. Basta mentire a se stesso. Anche lui un tiro ogni tanto non lo disdegnava. Lo aiutava a rilassarsi, a prendere le cose con un po' più di leggerezza. Farina tornò in cucina, seguito da Baku, che era appena arrivato e stringeva un megafono con la mano destra e una bandiera rossa sulla sinistra. Non era casuale la distribuzione degli oggetti. «Eccolo lui», ironizzò il profe. «Ci mancava l'uomo col megafono. Ora siamo tutti. Dai!» La voce del Baku, soprannome di ovvia anarchica memoria, risuonò amplificata dal megafono in tutto il condominio, e per un attimo Farina fu sicuro dello sfratto. Nei giorni precedenti le adesioni al corteo di protesta sul sito del Comitario Precari di Firenze erano state più di 200.000, alle quali si sommavano tutti i lavoratori stanchi di essere bistrattati dal governo, quello di centrodestra e poi quello tecnico in seguito. Un governo tecnico che doveva servire a redigere provvedimenti urgenti e che aveva fatto chinare la testa a un'Italia già in ginocchio. La scuola, poi. Il mondo della scuola di cui il prof e Baku facevano parte era immerso nel fango. Un fango creato dal precedente ministro, e mai prosciugato dall'attuale ministro, che aveva dato il colpo di grazia a Precari speranzoso in un futuro. Fragranza, così si chiamava l'attuale ministro. Già da tempo si erano abbandonate le utopie. Si sperava ancora in un futuro, quello sì, ma non in un futuro migliore. Il bello, il brutto e il cattivo. Mentre camminavano per il marciapiede con il passo frettoloso, Farina con gli occhiali spessi undito, le gambe magrissime e la schiena ricurva, beh, era il ritratto del brutto, alla perfezione. L'unica esistenza non precaria delle tre, ma sempre con pochi soldi in tasca e troppi sogni da dimenticare o rimandare a tempi migliori, era il Baku. Scolpito, un fisico perfetto, un'altezza sopra la media, capelli biondi quasi rasati, abbronzatura da lettino da centro benessere e altalenante insegnante di educazione fisica, come pure assiduo frequentatore di palestre. Di certo lui era il bello dei tre. E il cattivo, beh, era il profe. Non che fosse brutto, era moro, era magro, era alto. Era un po' emaciato, ma era bello. Aveva lo sguardo misterioso, molto attraente. Quella mattina però aveva una luce diversa, agguerrita, quasi crudele. Era palese che fosse in conflitto con il mondo intero. In particolar modo con chi quel mondo lo governava. Aveva strumenti in mano per migliorarlo e non voleva farlo. Era solo un professore lui. Quando qualcuno lo chiamava così, stentava a riconoscersi. L'immagine che aveva di lui non corrispondeva certo al suo essere. I prof erano rigidi, impostati, non si facevano le canne, non protestavano, erano benestanti. Non portavano i jeans consumati, non portavano neanche le scarpe da ginnastica sfatte e sporche. Erano di destra, non erano comunisti, e non erano neppure anarchici. Da quando insegnava lettere nelle scuole medie della provincia si era chiesto che cosa avesse da spartire con quell'ambiente. Erano tutte apparenze e convenzioni, regole imposte, mai condivise. Poi però ogni volta che entrava in classe, ogni volta che vedeva quegli occhi, ancora vergini dalle tante brutture del mondo, capiva che quella era la sua missione, trasmettere un messaggio, dei valori, porre dei dubbi, prima ancora che la conoscenza della grammatica o della geografia. Il giorno prima aveva spiegato perché quel giovedì non avrebbero avuto lezione. Sciopero! Quella parola non significava che si poteva stare a letto un'ora in più, oziare o fare una partita alla Wii. No! Se il prof non sarebbe stato presente era perché doveva lottare contro le ingiustizie, contro i ladri di soldi e di futuro, per una scuola che non fosse più simile a un parcheggio dissestato. Era stato così convincente nella sua arringa che un ragazzino, più piccolo nell'aspetto che all'anagrafe, alzò la mano e con un fil di voce chiese: «Posso partecipare alla rivoluzione?» Il prof aveva sorriso. «Ma no, Filippo, non è una rivoluzione quella di domani». Ma prof, lei ci ha detto che rivoluzione è sinonimo di cambiamento. Se domani tutti manifestano perché vogliono cambiare quello che non va, questa è rivoluzione. Il tredicenne era piuttosto convinto. Il sorriso del prof si spense di colpo. Si accese al suo posto un'espressione consapevole del fatto che qualcosa non andava. Aveva ragione Filippo, quella era una rivoluzione. E lui, che ormai si era esposto, quel mondo laido doveva cambiarlo. Non fosse altro che per lasciare alle generazioni che ora lo ascoltavano da dietro i banchi una realtà migliore di quella che lui aveva ereditato da chi lo aveva preceduto. Rivoluzione, cambiamento, rivoluzione. Quelle parole gli echeggiavano così nella sua testa. Si avvicinava nel frattempo a Piazza dei Cari, il luogo di ritrovo dei manifestanti. Lui, Baku, Farina, una generazione che era l'anello mancante della catena evolutiva. Avevano ereditato ricchezze, balocchi, profumi, ma non i mezzi per sostenerli. Ora che non volevano che la catena si spezzasse, dovevano trovare il modo che tutto questo potesse restare intatto, se possibile fortificato, nelle mani di quelle generazioni di inizio XXI secolo, che con gli occhi silenziosi e persi nel vuoto, nei monitor, nei display, chiedevano aiuto. Azione e integrazione. Integrazione e impegno collettivo. Collettività e collaborazione. Esempi. Avevano bisogno di esempi per capire tutti quei termini vuoti. Il prof non poteva tirarsi indietro, doveva essere in prima fila ad abbattere le barricate, a sgretolare il muro di un potere ormai lontano anni luce dal popolo. Su una nota meno rivoluzionaria, ma altrettanto importante, vi ripropongo un editoriale che abbiamo pubblicato un po' di tempo fa sul nostro blog. 7 buoni motivi per impegnarsi nella vita ed essere positivi. Bisogna sempre realizzare i propri sogni e rialzarsi, perché è sempre possibile. Bisogna darsi da fare per farlo, e ovviamente avere una sana dose di positività aiuta. Essendo una sognatrice molto razionale, parto da cose positive molto pratiche. Il mio settimo motivo per darvi da fare è perché dovete essere una fonte di motivazione per gli altri. Chi un domani vorrà arrivare dove siete voi, dovrà potervi guardare e dire: «Oh, se ce l'ha fatta quella persona, perché non dovrei farcela anch'io? Da oggi in poi mi impegno seriamente». Non dovete mai sottovalutare l'impatto positivo che potreste avere sulla vita degli altri. Siate quel modello propositivo e dinamico che ispirava a voi quando non ce l'avevate fatta, oppure che avreste tanto voluto avere, ma non l'avete mai trovato. Siate un fattore motivante per chi arriverà domani. Il numero 6 è: impegnatevi perché potrete fare la differenza nel mondo. Quando i vostri sforzi verranno ripagati e sarete in una posizione privilegiata, potrete concretamente fare la differenza, che si tratti di un potere in termini di follower, quindi di influenza sugli altri, o di un potere concreto, politico e istituzionale, quando finalmente ce lo avrete potrete usarlo per fare la differenza. Quindi impegnatevi per poter usare al meglio quello che avrete. La motivazione numero 5 è: investite bene le vostre energie. Non dovete mai lasciare spazio alle lamentele. Se vi impegnate realmente e quotidianamente, a fine giornata non avrete né la voglia né le energie per lamentarvi, neppure il tempo, se proprio vogliamo dirla tutta. E una vita senza lamentele è già una vita più positiva. Investite bene le vostre energie. La quarta motivazione è: provateci sempre e comunque, perché non bisogna mai credere a tutto quello che dicono gli altri. Impegnatevi perché non potrete mai sapere se quella persona che tanto rimpiange di non avercela fatta ce l'ha realmente messa tutta o se si limita semplicemente a sostenerlo a gran voce. Ci sono moltissimi giovani che si lamentano di non avere un futuro. La maggior parte di questi, però, si dedica con passione allo scoraggiare i coetanei che si approcciano alla laurea o alla ricerca di lavoro, anziché concentrarsi sulla loro vita. Voi non date ascolto a queste persone, perché non potete mai sapere se si sono realmente impegnate per raggiungere i loro obiettivi o se hanno mollato dopo i primi 50 curriculum inviati. Non gettate la spugna, non prestate attenzione a chi ha voglia di buttarvi giù. Voi siete voi e il destino degli altri non vi appartiene. La motivazione numero 3 è: essere attivi e perseguire i propri obiettivi è una caratteristica che rende speciali. Essere positivi e propositivi vi rende speciali. Se avete un approccio dinamico e instancabile nei confronti della vita, le altre persone saranno molto più felici di starvi accanto. Avrete più amicizie, più motivi per sorridere e più parole di affetto nella vostra vita. Questo non significa, come siamo sfortunatamente abituati a fare, pubblicare solo bugie positive sui social, foto fintamente casual e top con 1000 faccine. Quello si chiama sbattere in faccia delle bugie virtuali ai vostri amici. E non si fa. Quello che realmente voglio dirvi è che dovete imparare a trovare nuovi motivi per andare avanti, una ragione per cui la vostra giornata non è stata completamente negativa. Focalizzatevi su quella e poi pensate a quello che volete ottenere. C'è qualcosa che non va nella vostra vita? Ottimo! Oggi, anziché pensare a quello, scegliete di concentrarvi su qualcos'altro, qualcosa che volete fare ingranare. Scegliete con saggezza a cosa dedicare le vostre energie. La seconda motivazione è: datevi da fare perché è il primo passo per farcela. Chi riesce in qualcosa è chi ha iniziato a fare quel qualcosa partendo dalle basi, diventando poi sempre più bravo, fino a che ci è riuscito. Continuare a pensare che c'è chi ha culo o ha il calcio in culo è veramente patetico, perché è vero, ma vale davvero la pena di concentrare le nostre energie sull'invidiare gli altri senza spenderle su noi stessi? Perché guardare gli altri, dimenticandoci di puntare su noi stessi? Impegnatevi e basta, perché anche se non avete culo, se avete delle ottime capacità e tanta voglia di fare, ci saranno comunque altissime probabilità che arriviate a un qualche risultato nella vita. La prima e reale motivazione è che dovete impegnarvi perché c'è gente normalissima che ce l'ha fatta. Esistono moltissime storie positive che nella loro incredibile banalità non arrivano ai media. Neolaureati che iniziano uno stage e vengono assunti, giovani che intraprendono la strada del dottorato e fanno carriera, persone che si reinventano dopo una carriera finita male e che riscuotono un discreto successo. Sono storie che non possono finire al telegiornale, perché non sono vere notizie. Ma esistono, e io posso garantirvelo. Ho amici che hanno iniziato dottorati all'estero e sono molto felici. Conoscenti che hanno trovato lavoro prima ancora di laurearsi, e amiche che sono entrate in aziende in cui vengono valorizzate. Conosco anche persone che hanno perso il lavoro, ma nessuno ha gettato la spugna e ora sono quasi tutti nuovamente felici. Hanno cambiato settore, giro di amicizie, busta paga. Ma stanno bene e ce la stanno mettendo tutta per stare ancora meglio. Quindi impegnatevi, non datevi mai per vinti, perché la vita è colorata, esattamente come l'acqua, che sembra trasparente ma fa nascere gli arcobaleni. Date fiducia a voi stessi e al domani, e aumenteranno le possibilità di essere felici.